Lo studio che la Federazione Internazionale Terre des Hommes ha presentato ieri a Ginevra è il primo studio comprensivo sul livello, diciamo, di sfruttamento dei minori nel mondo. L'abbiamo chiamato Children as Commodities, con un punto interrogativo, cioè bambini come merci, con un punto interrogativo a significare ovviamente che c'è la speranza che tutto questo non accada. Però dai dati che abbiamo raccolto, inerenti le varie forme appunto di sfruttamento dei minori, questo fenomeno nel mondo è assolutamente di prima grandezza, non soltanto perché abbiamo numeri di decine e decine di milioni di bambini che in un modo o in un altro vengono sfruttati, poi diremo anche come, ma la cosa che più preoccupa è che questo è un numero, sono grandi numeri in crescita, quindi il trend, la tendenza allo sfruttamento dei minori è in crescita in tutto il mondo, in Asia, in Africa, in America Latina, ma ancora più preoccupante se possibile diciamo nel mondo sviluppato, nel primo mondo, in Europa, in Giappone, negli Stati Uniti. Questo vuol dire che le forme di sfruttamento dei minori si stanno articolando, si stanno, diciamo, specializzando, e si stanno specializzando anche le aree geografiche, diciamo, di provenienza dei minori sfruttati. Facciamo qualche esempio. Minori in Asia, in Africa, in America Latina sono ancora sfruttati, diciamo, in maniera, diciamo, tradizionale, se vogliamo usare questo termine, cioè come manovalanza, quindi le grandi imprese di costruzione delle megalopoli latinoamericane o asiatiche o africane utilizzano bambini di 4, 5 anni, 6 anni per costruire appunto questi palazzi, o spesso queste costruzioni che fanno molto impressione agli occhi di un occidentale che visita il terzo mondo, ma che appunto dietro spesso hanno centinaia e centinaia di morti, bambini, per la necessità di trasportare in alto i mattoni e senza una gru che li sostenga, per cui il bambino viene issato sostanzialmente come se fosse una specie di gru umana per depositare questi mattoni al 50° piano di un grattacielo di Manila o di un grattacielo di Kinshasa o di Bogotà o di Città del Messico. E questo è un dato di fatto purtroppo che si consolida, cioè sfruttamento classico del lavoro minorile rispetto alla manovalanza. Ma quello che sta emergendo negli ultimi anni è il fenomeno del traffico invece di bambini a fini ancora più perversi, in particolare a fini di sfruttamento della prostituzione, pornografia, e questo lo vediamo tra l'altro nelle nostre strade. Sempre di più la prostituzione nelle nostre strade è una prostituzione immigrata, sempre di più l'età di queste bambine, anche di questi bambini, perché in aumento anche la prostituzione appunto maschile, è minore dei 16 anni, dei 15 anni, addirittura dei 14 anni. E quindi il nord ricco, diciamo, aspira a lavoro minorile anche a fini appunto di sfruttamento della prostituzione. Fenomeni che fino a qualche anno fa sembravano, come dire, confinati all'orrore, punte di iceberg, oggi invece appunto si rivelano come tali. Per esempio i bambini sfruttati per prelevare gli organi per i trapianti clandestini, una cosa che potrebbe appunto sembrare marginale, ma che poi, se andiamo a vedere le statistiche e specialmente le aperture fra virgolette agghiaccianti dell'associazione medica statunitense di qualche giorno fa, che dice perché non legalizzare il commercio di organi, capiamo evidentemente che dietro non abbiamo piccoli numeri ma numeri molto, molto grandi. Chiudo con una serie di fenomeni che anche questi possono sembrare marginali, ma in realtà diciamo coinvolgono decine di milioni di bambini, e sono il fenomeno per esempio dei bambini soldati. Tutte le guerre civili che noi conosciamo, in particolare nel continente africano, ma anche in quello asiatico, in quello latinoamericano, oggi quasi tutti questi eserciti, guerriglieri, liberazioni, terrorismi, chiamiamoli come vogliamo, sono fatti di bambini spesso piccoli, piccolissimi, 7, 8, 9, 10 anni. E il dato agghiacciante è che le grandi corporation che producono armi automatiche sono anni che adattano il Kalashnikov o la K-47 a queste piccole mani, quindi come sempre lo sfruttamento del lavoro minorile è semplicemente lo specchio dello sfruttamento in genere appunto che noi facciamo non soltanto dell'infanzia, ma purtroppo più in generale in questo momento storico dell'uomo sull'uomo.